Perfetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Standard & Poor's ha tagliato il rating dell'Europa, ma Bruxelles non ci sta, l'agenzia sbaglia. Approvato nella notte l'accordo sull'unione bancaria, oggi secondo giorno del Consiglio europeo, tra poco la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Letta. Avevo un'informativa incompleta, si difende così a Radio 24 il direttore del carcere di Marassi dopo il permesso premio all'evasione del serial killer. Il ministro Cancellieri nell'istituto di pena erano perfettamente informati. La legge di stabilità verso l'approvazione alla Camera, poi dovrà tornare al Senato. L'attacco dei sindaci, manca almeno 1 miliardo di euro di trasferimenti per i comuni. Ospite tra poco il presidente dell'ANCI Fassino. Telecom, la procura di Roma avrebbe aperto un'indagine, si ipotizza un patto occulto tra i soci per favorire Telefonica. In corso l'assemblea, non si revochi il CDA, dice l'amministratore delegato Patuano. Nuovo arresto per Walter Lavitola, si pensa ad un ricatto a Berlusconi, gli avrebbe procurato delle prostitute a Panama e poi avrebbe girato filmini. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete commentare al 349-238-6666 oppure su Twitter con l'hashtag Effetto Giorno o ancora sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/Effetto Giorno. Iniziamo da Bruxelles, dove oggi è arrivata la bocciatura di Standard & Poor's, dell'agenzia di rating, che ha generato una risposta piccata appunto da parte dell'Unione Europea. Si sta concludendo tra l'altro il Consiglio Europeo, c'è il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo da Standard & Poor's. Sì, iniziamo da Standard & Poor's ricordando che il Consiglio europeo si è praticamente concluso proprio pochi minuti fa, siamo in attesa a breve della conferenza stampa del Premier Enrico Letta, ma come dicevate appunto voi da studio, la vera tegola è caduta questa mattina, non c'è stato neppure il tempo di festeggiare l'accordo pur imperfetto e forse anche un po' incompleto sull'unione bancaria, che i 28 leader si sono subito trovati questo declassamento da tripla a doppia più da parte di Standard & Poor's, che dice c'è debolezza generalizzata del credito nell'Unione Europea a 28. Quasi immediata la replica della Commissione Europea con un duro comunicato del vicepresidente e commissario agli affari economici Olli Rehn, che dice siamo in disaccordo, e Rehn ricorda anche che Moody's e Fitch, le altre due grandi sorelle del rating, mantengono la tripla A. Fonti dell'Unione Europea parlano di decisione politica. In effetti bisogna anche ricordare sullo sfondo che c'è da diverso tempo ormai un confronto anche abbastanza duro tra l'Unione Europea, che sta cercando di regolamentare il mondo delle agenzie di rating, e le stesse agenzie di rating, e quindi non è da escludere ci sia anche un po' uno sgambetto da parte di Standard & Poor's verso l'Europa. Il vertice si sta concludendo, in mattinata temi tra virgolette minori per quanto riguarda l'agenda, si è parlato dell'immigrazione con la task force, con i primi risultati della task force istituita dopo la tragedia di Lampedusa, di Ucraina con la presidente di turno dell'Unione Europea, la lituana Grybauskaitė, che ha segnalato un certo cambio di rotta, la porta resta aperta, ha detto, per il popolo ucraino ma non per il governo ucraino e quindi il presidente Yanukovych. E infine ci sarebbe anche un mandato all'alto rappresentante europeo Katie Ashton affinché esplori la possibilità di una missione europea nella Repubblica Centrafricana. Al momento sono presenti solo truppe francesi, e da Bruxelles per il momento è tutto. Grazie a Sergio Nava. Sergio, tra l'altro, lo ritroveremo in Europa 24 subito dopo le 14 con ulteriori aggiornamenti. Vedremo se saremo anche in grado di farvi sentire qualcosa dalla conferenza stampa di Letta. Veniamo alla vicenda di Telecom. Oggi si sta celebrando l'assemblea e nel frattempo si apprende che la Procura di Roma avrebbe aperto un'inchiesta. Iniziamo da qua. La procura fa sapere che non ci sono indagati, ma non smentisce le indiscrezioni di stampa sull'apertura dell'indagine. A dire il vero, più che indiscrezioni si tratta di un racconto completo, con tanto di criticità e obiettivi. L'ipotesi di reato è ostacolo alla vigilanza. Secondo i magistrati, i grandi azionisti si sarebbero accordati sul passaggio delle quote da Telco a Telefonica e sulla cessione di Telecom Argentina. Il tutto al fine di favorire gli spagnoli e eludere i controlli sulla regolarità dei passaggi. Controlli che dovrebbero tutelare i piccoli azionisti e vigilare sul valore e la fattibilità delle operazioni. L'ex presidente Franco Bernabé è stato ascoltato in qualità di testimone e non c'è dubbio che avrà avuto molto da raccontare al riguardo, visto che a settembre si è dimesso proprio perché contrario all'ascesa di Telefonica, che dopo una serie di accordi e passaggi è arrivata al 66% di Telco, primo azionista di Telecom. Molti dubbi anche sulla vendita repentina di Telecom Argentina, dubbi sul prezzo ritenuto da alcuni troppo basso e dubbi sullo scopo reale. I magistrati ipotizzano che con questa cessione Telefonica, molto attiva in Argentina, abbia schivato i più che probabili problemi di antitrust. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dal punto di vista delle indagini. Mentre, come si diceva, si sta celebrando l'assemblea di Telecom Italia, un'assemblea molto importante. Ci racconta gli ultimi aggiornamenti e perché è così importante Livia Zancaneri di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, che è in linea con noi e che sta seguendo i lavori. Livia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, vai. Allora, è iniziato da praticamente un secondo l'intervento di Marco Fossati, che sappiamo ha chiesto di revocare l'attuale consiglio di amministrazione di Telecom Italia. Marco Fossati ha parlato di una gestione che ha portato all'erosione dei risultati del gruppo e ha specificato che non si tratta di una polemica ma di alcune criticità che sono state sollevate proprio dalla sua società, che è la Findine, che è azionista con il 5% di Telecom Italia. L'assemblea è cominciata stamattina alle 11, presente oltre il 50% del capitale di Telecom, che è pari all'affluenza dell'ultima assemblea, ma è un numero che è destinato comunque a salire. Si tratta infatti di una cifra provvisoria, ma al momento avremo i dati definitivi. Marco Patuano, amministratore delegato di Telecom, aprendo stamattina l'assemblea, ha detto che è giunto il momento di superare le polemiche e le dietrologie e tornare a focalizzarci sul futuro del nostro gruppo nell'interesse di tutti i suoi azionisti, perché Telecom deve essere messa nelle condizioni di perseguire un piano industriale che la porterà a riappropriarsi della rivoluzione nata nel nostro settore. Patuano ha anche detto che oggi assistiamo a uno straordinario esempio di democrazia societaria e vi deve essere un senso di responsabilità da parte di tutti gli azionisti. Patuano ha spiegato all'inizio del suo discorso che Telecom non è un'azienda in crisi né sotto forma per gli aspetti economici finanziari né per le idee e le strategie. Ha detto che il debito è sostenibile nonostante il declassamento delle agenzie di rating, e in merito alle indagini della Consob ha specificato che la società ha adottato una linea di completa disponibilità e apertura verso la Commissione. Grazie a Livia Zancaner per questi aggiornamenti. Prima di passare alla politica, che è politica economica anche oggi perché si parla di legge di stabilità, c'è il voto di fiducia, noi continuiamo a parlare di finanza e di vita delle aziende, in particolare perché oggi riprende il confronto tra Fiat e sindacati sul rinnovo del contratto, e però nel frattempo è arrivata anche la lettera ai dipendenti di Fiat anno dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne e del presidente John Elkann. Ci racconta tutto Filomena Greco. Ciao Filomena, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone. Così proprio di questa mattina la notizia della lettera che la D dell'Ingotto, Marchionne e il presidente Elkann hanno scritto ai dipendenti del gruppo, ribadendo essenzialmente due cose. La prima, che gli investimenti in Italia proseguiranno nei mesi e negli anni a venire. L'obiettivo è di usare i nostri stabilimenti, scrivono i vertici di Fiat Chrysler, come base per la produzione di veicoli destinati ai mercati di tutto il mondo. I segnali che arrivano dalla Maserati di Grugliasco, aggiungono, sono molto positivi, ci incoraggiano dunque a proseguire su questa strada. La seconda cosa riguarda invece il 2014, sappiamo che il mercato continuerà a essere difficile, scrivono ancora, ma siamo convinti di poter centrare gli obiettivi che ci siamo posti. Insomma, parole rassicuranti in un momento però delicatissimo per l'Ingotto, primo per la situazione di mercato sia in Europa che in Italia, per l'urgenza degli investimenti in alcuni poli produttivi italiani come per esempio Cassino, e infine per la questione dell'acquisizione della quota Chrysler ancora in mano a Veba, che sembra ancora di fatto bloccata. Sul piano sindacale, come dicevi tu, da questa mattina è in corso l'incontro presso l'Unione Industriale di Torino, il terzo fra i sindacati firmatari del contratto di gruppo Fiat e i vertici dell'azienda, proprio sul rinnovo del testo sia nella sua parte normativa che in quella economica per il prossimo biennio, con le sigle che chiedono miglioramenti sulla gestione di permessi, orari di lavoro, indennità, sui recuperi produttivi e malattia. Fiat Chrysler incontrerà, lo ricordiamo, separatamente la Fiom CGL, che non ha firmato il contratto dopo la spaccatura di 2 anni fa, e l'incontro è fissato per il prossimo 9 gennaio. Linea allo studio. Grazie Filomena Greco. Andiamo a collegarci adesso invece con la Camera dei Deputati, dove si vota la fiducia sulla manovra. C'è la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, a che punto siamo? Siamo ancora alla prima chiama, ricordiamo che il voto di fiducia è per chiama nominale, il governo ha l'opposto sulla legge di stabilità, una manovra criticata dai comuni per i tagli, i sindaci si appellano al capo dello Stato Giorgio Napolitano, come hai detto tu nei titoli, attacco poi anche dagli industriali per le risorse date un po' a casaccio, ricordiamo l'attacco di ieri di Giorgio Squinzi, e anche l'opposizione che contesta questa legge. Per Mara Carfagna di Forza Italia è un provvedimento modesto e inadeguato, è stato tradito l'impegno con il Paese, è un mostro per distribuire prebende con qualche sconto fiscale per gli amici. Per il Movimento 5 Stelle si avvantaggiano le lobby durante l'esame, spiega Laura Castelli, il Parlamento è stato invaso da lobbisti e indecenti mercanti pronti a piazzare marchette. Per il PD invece è una legge che prova a dare risorse e risposte al sistema Paese, provando a ridurre il costo del lavoro per imprese e lavoratori. Tra circa un'ora e mezzo il voto finale, insomma, di fiducia, poi però ricordiamo che ci sono gli ordini del giorno e infine quello sul provvedimento proprio sulla legge di stabilità, che alla Camera è disgiunto dalla fiducia e che potrebbe quindi slittare a domani. La legge di stabilità poi tornerà al Senato per l'approvazione definitiva. Simone. Grazie, grazie alla nostra Elisabetta Fiorito, che ha tra l'altro intervistato pochi minuti fa su tutto questo il vice ministro all'economia Fassina. Sentiamo. Segnalo quello che c'è, segnalo la salvaguardia per altri 17.000 esodati, 17.000 uomini e donne che sarebbero rimasti senza nulla nel 2014. Segnalo che ci sono altri 50 milioni per le borse di studio per gli studenti universitari, segnalo le risorse per gli specializzandi in medicina e per i precari della giustizia, 50 milioni altri per le calamità naturali, il miglioramento dell'indicizzazione delle pensioni tra 3 e 4 volte il minimo, questo è stato fatto. Gli industriali però dicono sono state date risorse un po' a tutti, seguendo un vecchio metodo, insomma c'è un attacco di Squinzi. Sì, credo che ci fossero aspettative assolutamente irrealistiche e poco consapevoli dei vincoli di bilancio entro i quali si muove la legge di stabilità. Lo shock che tanti attendevano non c'è perché non ci poteva essere. Nessun governo nazionale oggi è nelle condizioni di poter dare shock all'economia. La battaglia è a Bruxelles per cambiare una linea di politica economica insostenibile. Ma lo slot machine? È un incidente, ripeto, avvenuto sulla base di un emendamento di origine parlamentare che il governo correggerà, perché non è quella la linea del governo in materia di giochi. E adesso veniamo alla cronaca in parte legata anche in questo caso alla politica, perché c'è un nuovo arresto per l'ex direttore dell'Avanti, Walter Lavito, la sentiamo. C'è anche un risvolto a luci rosse tra le pagine dell'inchiesta della Procura di Napoli, che oggi ha riportato in carcere il faccendiere Walter Lavitola. Si tratta delle dichiarazioni dell'imprenditore Angelo Capriotti a proposito di una confidenza fattagli proprio da Lavitola. Quest'ultimo gli avrebbe detto di aver procurato alcune prostitute a Silvio Berlusconi in occasione di un suo viaggio a Panama e di avere ripreso di nascosto gli incontri tra l'ex premier e le donne. Una vicenda da provare, ma che troverebbe conferma nel fatto che un altro imprenditore, Mauro Velocci, si sentisse molto potente dopo avere confidato di essere entrato in possesso di quei video. Intanto nell'ambito di questa inchiesta è stata ipotizzata per Lavitola l'accusa di tentata estorsione, partendo da una telefonata del 2011 tra l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, considerato però un interlocutore inconsapevole, e l'ex numero uno di Impregilo, Massimo Ponzellini. In quella telefonata Berlusconi riferiva che Lavitola lo aveva messo in guardia circa l'intenzione del presidente panamense Riccardo Martinelli di attuare ritorsioni nei confronti del colosso imprenditoriale italiano se questo non avesse mantenuto la promessa di realizzare un ospedale a Panama. Un avvertimento che per i magistrati sa di minaccia. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero con gli aggiornamenti sul crollo del teatro, parziale naturalmente, di ieri a Londra. Ci colleghiamo con Nicole degli Innocenti, dalla capitale britannica, per fare il punto, sapere quali sono i numeri, come stanno le persone che sono rimaste ferite. Nicole, buongiorno. Buongiorno. Sì, direi che dopo il sollievo adesso partono le polemiche. Non ci sono state vittime, questo è stato confermato ancora stamattina. Il bilancio definitivo dato dalle forze di soccorso è di 76 feriti, 7 dei quali restano in ospedale in gravi condizioni con fratture ma non in pericolo di vita. Delle 558 persone che sono state portate in ospedale invece sono state già medicate e dimesse. Quindi un bilancio molto più lieve di quanto si temesse ieri sera, quando è crollato il soffitto del teatro, che appunto era affollatissimo, c'erano 720 spettatori. Adesso c'è una rabbia crescente per il rischio che è stato corso, ed è scattata la polemica sulla sicurezza, sullo stato di sicurezza delle decine di altri teatri storici londinesi. Il comune di Westminster ha avviato un'indagine strutturale del teatro e renderà noti i risultati entro oggi, però hanno già detto che si sono staccati circa 10 metri quadri di intonaco dal soffitto a cupola del teatro, ed è questo intonaco è caduto sul pubblico molto probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua da piccole crepe sul tetto, perché ieri sera, mentre era appunto in corso lo spettacolo, l'onda è stata scossa da un violentissimo temporale con lampi, tuoni e fulmini. Grazie a Nicole degli Innocenti per questi aggiornamenti. Ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo per parlare con Piero Fassino, presidente dell'ANCI, della manovra e del perché la contestano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Il giudice civile di Milano, Angelo Mambriani, ha disposto il sequestro di 120 milioni di euro ai Ligresti e a due ex manager di Fonsai, Fausto Marchionni e Antonio Talarico. Standard & Poor's ha tagliato il rating dell'Europa, ma Bruxelles non ci sta. L'agenzia sbaglia, dice. Aveva un'informativa incompleta, si è difeso così a Radio 24 il direttore del carcere di Marassi dopo il permesso premio e l'evasione del serial killer. La legge di stabilità verso l'approvazione alla Camera, poi dovrà tornare al Senato. L'attacco dei sindaci, mancano soldi per i trasferimenti ai comuni. Nuovo arresto per Walter Lavitola, si pensa ad un ricatto a Berlusconi, gli avrebbe procurato delle prostitute a Panama e poi avrebbe girato dei filmini. L'avvocato del Cavaliere Ghedini dice: è tutto falso, Berlusconi non ha incontrato prostitute. E adesso, prima di raggiungere il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, che avremo tra poco, ammesso che ci risponda al telefono, naturalmente, saluto un altro sindaco, Clara Michelangeli, di Onanì, provincia di Nuoro. Come avete capito, torniamo anche oggi a parlare con i sindaci della Sardegna colpita dall'alluvione. Buongiorno, Michelangeli. Buongiorno, sì. Buongiorno. Scusatemi. No, buongiorno, sì. Ma le pare, da una settimana senza acqua? Da una settimana senza acqua potabile, senza acqua del tutto, ci siamo rimasti solo per 3 giorni per fortuna, però da una settimana siamo senza acqua potabile, sì certo. Ed è un effetto anche questo dell'alluvione? Sì certo, un effetto dell'alluvione, perché probabilmente è legato al fatto che c'è un eccesso di alluminio nell'acqua, quindi probabilmente alle tubature che si sono lesionate, interrotte e così via. Quindi non possiamo utilizzarla in questo momento neanche per cucinare, ecco, perché aumenterebbe anche ulteriormente l'eccesso di alluminio. E quindi ve la comprate, che cosa fate? Beh, in questi giorni ce la stiamo comprando, però vediamo, ci sono anche delle fontane, stiamo utilizzando anche dalle fontane, però nei rubinetti in questo momento non è assolutamente potabile, né Onanì ma neanche nei paesi vicini, Bitti e comunque Lula. Avete anche grossi problemi di viabilità? Noi abbiamo avuto soprattutto problemi nella viabilità, per fortuna il paese non ha subito danni né alle abitazioni né agli abitanti, però tutta la viabilità esterna è stata interrotta, sia le strade provinciali che conducono ai paesi vicini e poi anche comunque quelle comunali che portano alle campagne. Ma mi faccia capire, c'è gente che non riesce a rientrare nel comune perché c'è un ponte interrotto, come funziona? Eravamo così, sì, c'era, allora inizialmente c'era quella situazione, no, non potevi proprio uscire dal paese perché Onanì si trova in mezzo a due paesi che sono Lula e Bitti, quindi quindi si sono interrotte la sala provinciale sia per Ditti che per Lula. Poi ovviamente hanno realizzato adesso un passaggio provvisorio tra Onani Lula, che è stato collaudato tra virgolette l'11 di dicembre, quindi comunque per 20 giorni certo avevamo quella situazione che non si poteva comunque uscire se non tramite una strada interpoderale che con la pioggia era impraticabile da mezzi comunque normali, a parte che da fuoristrada attrezzati. Grazie. Ora però brevemente. La viabilità è momentaneamente risolta passaggio provvisorio. Meno male. Salve Clara, sì. Michelangeli, sindaco di Onani, grazie per essere stata con noi. Io vi devo dare una brutta notizia. Appena battuta dalle agenzie, un lutto nel mondo dell'alta moda italiana, perché è morto a Milano Sergio Loro Piana. Era 69 anni, amministratore delegato, come sapete, dell'omonima azienda tessile, che poi era stata ceduta al colosso francese Elvemage. Era malato da tempo. Invece vi faccio sentire, vediamo se riusciamo a sentire la diretta, almeno un brano della conferenza stampa di Enrico Letta. E qui dico vorremmo, perché la partita rimane aperta, una transizione meno lunga. 10 anni di transizione, io lo considero, l'ho detto ieri molto chiaramente, il tempo limite che ci siamo dati, ma è una transizione che deve assolutamente arrivare a risultati molto prima. Di 10 anni. Si sta parlando dell'unione bancaria, come avrete intuito. Continuiamo a sentire Letta ancora un attimo. 10 anni è un tempo troppo lungo e bisogna dare assolutamente il segno che questi strumenti, cioè la parte comune di questi strumenti, perché poi sappiamo tutti che verrà messa in azione già dal 2016 e già saranno operativi alcuni strumenti già dal 16, ma non possiamo sicuramente aspettare che il phasing out tra la parte dei backstop nazionali e il fondo comune avvenga con un tempo troppo lento, quindi credo che così dunque il Presidente del Consiglio Enrico Letta, lo state sentendo in diretta da Bruxelles, dove sta parlando appunto dell'unione bancaria e di questi tempi di transizione verso il completamento appunto della cosiddetta unione bancaria, del sistema di salvataggio delle banche, secondo Letta troppo lunghi. Ha detto anche Letta, nella parte che non siamo riusciti ad ascoltare, che il declassamento da parte di Standard & Poor's è un segnale da non sottovalutare, che Europa ed Euro sono ancora sotto osservazione. Ha comunque commentato sull'unione bancaria, ha detto è stato un passo avanti davvero importante. Oggi, adesso, come tutti i venerdì, c'è l'inchiesta di Daniele Biacchessi, che oggi ci parla del PD di Milano. Pietro Bussolati ha 31 anni, è nato il 2 maggio 1982, è laureato in economia a Pavia, ha lavorato per l'autorità per l'energia elettrica e il gas e ora si occupa di qualità all'ENI. Si è iscritto al Partito Democratico nel 2009, si è candidato alle elezioni regionali senza essere eletto, ma ben prima della vittoria di Matteo Renzi alla guida del partito a livello nazionale, lui la sua battaglia locale ad un certo punto l'ha vinta, perché è diventato segretario del PD provinciale a Milano prima di Renzi e in pochi giorni ha rivoluzionato il partito. Si è inventato una segreteria politica la cui media anagrafica è di 42 anni. Diciamo che Milano anticipa sempre i cambiamenti, lo ha fatto sempre in tutte le sue fasi storiche, sia in positivo, altre volte a mio avviso in negativo. In questo momento in cui le persone chiedono un cambiamento della politica, non solo anagrafico, ma un distacco rispetto a degli schemi usati in passato, ho anche preso un po' in giro Matteo Renzi il fatto di aver vinto prima di lui il congresso. Bussolati parla di due sfide centrali, diciamo due occasioni da non perdere, l'Expo 2015 e il progetto di città metropolitana. Sì, credo che Milano abbia davanti a sé due sfide centrali, che sono l'Expo e la città metropolitana. Sono due sfide collegate, non a caso io in una segreteria molto snella che ho varato questa settimana ho deciso di dedicare due funzioni specifiche a Expo e a Città Metropolitana. Se Milano saprà costruire dal basso, con la sua realtà, con i suoi comuni, una città metropolitana autonoma e capace di avere delle leve per intervenire e rispondere a delle domande che sono presenti sul territorio, lo saprà fare soprattutto sfruttando l'opportunità che Expo offre. Quindi è centrale nelle nostre politiche, è centrale essere Expo ottimisti e cercare di lavorare affinché Expo sia il grande evento di raccolta di visitatori e di valore aggiunto che sappia aumentare la qualità dei servizi per i milanesi. Il nuovo segretario del PD di Milano sembra in sostanza un decisionista, pare perfino più renziano di Renzi. Non mi piace tanto l'etichetta come credo. Diciamo che se Renzi provare a sperimentare, girare i territori, ascoltarli, dare al partito una fisionomia decisionista, in qualche modo un partito che torna a esercitare un ruolo e a influenzare le istituzioni, beh sì, se questo vuol dire essere renziani, lo sono molto. E poi c'è una certa critica, diciamo così, alla giunta Pisapia. Beh, diciamo che in qualche modo abbiamo superato una fase molto difficile in cui abbiamo dovuto sistemare degli errori commessi nel passato, quindi adesso sistemati i bilanci dobbiamo far scattare la fase 2, gli ultimi 2 anni e mezzo di amministrazione milanese, in qualche modo quindi sì, rinnovare le modalità con cui ci presentiamo ai milanesi. In questo senso avere coraggio nella sfida di città metropolitana e sfruttare Expo come grande occasione per far conoscere Milano e riportarla ad essere la capitale morale non solo in Italia ma in Europa, alla sfida che abbiamo di fronte. Il rinnovamento parte da Milano, continua a dire Bussolati, e allora si chiede perché non provarci? Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura il lutto nel mondo della moda, è morto Sergio Loro Piana, a 69 anni, amministratore delegato dell'azienda tessile, leader mondiale del cashmere, che era stata ceduta qualche tempo fa al colosso francese del lusso LVMH. Quello avvenuto a Lampedusa è un fatto intollerabile, esposo la linea del ministro dell'interno, così poco fa il presidente del Consiglio Enrico Letta, che dice: sono d'accordo sul recesso e cambio completo di gestione del centro di accoglienza. La legge di stabilità verso l'approvazione alla Camera, poi dovrà tornare al Senato. L'attacco dei sindaci, mancano i trasferimenti per i comuni. Il ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio assicura, arriveranno con un decreto a parte. Standard & Poor's ha tagliato il rating dell'Europa, un segnale da non sottovalutare, dice Letta, ma Bruxelles non ci sta, l'agenzia sbaglia, dal Premier soddisfazione per l'accordo sull'unione bancaria, perplessità sui tempi troppo lunghi. E torniamo adesso alla vicenda del serial killer fuggito, evaso dopo un permesso premio. Credo che Gagliano stia pensando di costituirsi, non credo che andrà all'estero. Così il direttore del carcere di Marassi, Salvatore Mazzeo, ospite questa mattina di Alessandro Milan in 24 Mattino. Tra l'altro il ministro Cancellieri, il ministro della giustizia, dice nel carcere sapevano tutto. Una versione parzialmente smentita dallo stesso Mazzeo. Dunque, ascoltiamo. Quando mi è stato detto: ma questo è un serial killer, io ho detto: ma chi lo dice che è un serial killer? Perché io conosco i precedenti del detenuto, conosco i precedenti del detenuto, ma non conosco nello specifico tutti i dati giudiziari che riguardano quelle vicende. Le dica questo, non è davvero pentito di nulla visto quello che sta succedendo adesso? Ma guardi, noi abbiamo fatto tutto il necessario. È chiaro che, come dice lo stesso vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Pagano, qua siamo nell'imponderabile. Certo, dire che non sono dispiaciuto, no, perché è sempre un fallimento quando una persona non rientra in carcere, come un fallimento per l'istituzione quando una persona muore in carcere. Perché io mi chiedo cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui Gagliano, dopo 7 anni di pena, con un fine pena di un anno, come se fosse impiccato in carcere perché non avesse avuto una speranza di uscire nei tempi dovuti e di rispetto e garantita a tutti gli altri detenuti. Ecco, mi domando anche questo. Quindi, allora, come vede, il lavoro è molto difficile. Dove è, secondo lei, perché sarà interessato anche lei a seguire la procura in seguito, ora bisogna riprenderlo Gagliano, è davvero in Francia come l'ipotesi più presumibile? Ma guardi, io le dico una cosa senza presunzione, io credo di conoscere bene, ma molto bene Gagliano, perché in questi 7 anni l'abbiamo studiato a fondo sotto il profilo comportamentale all'interno dell'istituto. Personalmente ho avuto diversi colloqui con lui, quindi, e al di là di quelle che sono le sue carenze affettive e relazionali, perché è una personalità a sfondo narcisistico, però è una persona abbastanza lucida e direi orientata, lucida e orientata. Io penso che Gagliano in questo momento sta pensando di costituirsi. Così il direttore del carcere. E poi c'è stato l'intervento questa mattina in aula del ministro della giustizia, Cancellieri. Sentiamo. Risulta in modo evidente come il giudice abbia avviato un'istruttoria chiedendo all'istituto penitenziario e al servizio psichiatrico del carcere tutte le notizie necessarie, proprio partendo dalla valutazione dell'ampio curriculum criminale di Gagliano. Tengo in particolare a precisare questo punto per sgombrare il campo dall'equivoco ingenerato dalle prime dichiarazioni rese dal direttore del carcere di Marassi, che sembrava sostenere che il carcere non aveva avuto conoscenza dell'intera storia criminale del detenuto, cosa che, come ho detto, è smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la direzione del carcere e la magistratura di sorveglianza. Il giudice di sorveglianza dunque ha concesso il permesso sulla base di tutti gli elementi di conoscenza che erano necessari al fine di adottare quella delicata decisione. E adesso andiamo all'estero. Arriveranno oggi in Italia 63 civili europei, di cui 34 italiani, evacuati ieri dal Sud Sudan, nel paese subsahariano. Intanto continuano i disordini. Tre caschi blu indiani oggi sono stati uccisi in un attacco contro una base delle Nazioni Unite nello stato di Yonglei. Qual è l'origine degli attuali disordini? Laura Bettini l'ha chiesto a Gianpaolo Calchinovati, direttore dell'Osservatorio Africa dell'ISPI, l'Istituto di Studi Politica Internazionale. Dunque sentiamo che cosa ci ha detto. La nascita del Sud Sudan è stata un'eccezione in Africa, dove normalmente sono stati mantenuti fermi confini ricavati dalla decolonizzazione e implicitamente dal sistema coloniale che l'ha preceduta. Nel caso del Sudan, la lunga vertenza fra un nord prevalentemente attestato attorno al gruppo dirigente arabo-islamico e un sud dove prevalevano popolazioni o di religioni animiste o cristianizzate, con un'elite anche cristianizzata, questa lunga disputa è finita con un accordo che ha portato all'indipendenza nel 2011, riconosciuta anche dal governo di Khartoum. Quindi in un certo senso non ci sono delle vertenze se non per il confine e per la gestione del petrolio. Questa crisi sembra tutta dentro il gruppo dirigente di Juba, la capitale del Sud Sudan, un paese, il Sud Sudan, abbastanza artificioso dal punto di vista proprio delle potenzialità di essere uno Stato. Questa è una tendenza grave del sistema internazionale post-bipolare, accettare o addirittura promuovere la formazione di Stati che non hanno i mezzi tecnici per poter gestire le responsabilità di uno Stato. Il contrasto ha contrapposto il presidente al vicepresidente. Alla lunga potrebbe essere una riproposizione della tensione fra i due gruppi etnici neri del Sud Sudan, Dinka e Nuer. Però in realtà i due blocchi, i due fronti, sembrano comprendere sia di qua che di là gli stessi gruppi. Lo stesso vicepresidente Machar, che è stato licenziato in un certo senso dal capo del governo, è vicinissimo alla vedova del padre della patria del Sud Sudan, Garang, morto prima che il Sud Sudan diventasse indipendente, e naturalmente come Garang e la Dinka, anche la vedova di Garang e Dinka. Quindi non si può interpretare rigorosamente in termini tribali il contrasto. Probabilmente si parla di potere, si parla effettivamente di gruppi che vogliono spartirsi il petrolio, che è l'unica risorsa di questo paese, e forse, e questo è anche un problema che potrebbe essersi posto, una diversa collocazione dei paesi vicini. Il Sud Sudan è un paese senza sbocchi, dipende moltissimo dai paesi africani che lo circondano, in particolare Uganda e Etiopia. E lontano c'è l'Egitto. Per l'Egitto l'indipendenza del Sud Sudan è stata una catastrofe, perché ha aumentato il numero di stati che attingono all'acqua del Nilo, a monte dell'Egitto. E anche questo fatto può essere importante, cioè se l'Egitto ha i mezzi o non ha i mezzi per impedire che la crisi si accentui alle sue spalle. Questo è il quadro dal Sud Sudan. Beh, adesso invece ci pigliamo un attimo un po' più leggero per parlare di calcio e per parlare del riassetto in corso nel Milan. Eccolo qua il nuovo Milan benedetto da Berlusconi, un Milan che sembra un po' Casavianello, con una coppia, Lady Barbara e Adriano Galliani, che dovrebbe guidare la società rossonera con obiettivi comuni e competenze separate. Un matrimonio litigarello, quindi, ma che per il bene della società dovrebbe archiviare le vecchie ruggini. La nuova organizzazione individuata da Silvio Berlusconi per ricomporre la frattura è stata ratificata ieri sera dal Consiglio d'amministrazione. Ad Adriano Galliani, vicepresidente vicario amministratore delegato, andrà tutta l'area tecnico-sportiva. A Barbara tutti gli altri settori, in primis quello commerciale e la vicepresidenza. In casa Milan comincia l'era del doppio amministratore delegato. L'altra novità è che il cavaliere vuole tornare ad occuparsi in prima persona del Milan. La prima mossa sarebbe la sostituzione in luglio di Allegri per Seedorf, che nel Milan ha giocato 10 anni. Queste le intenzioni, poi come sempre sarà il campo a decidere, a partire dal derby di domenica sera. Per il Milan, a 24 punti dalla Juventus, un successo sarebbe molto ma molto gradito. Dario Ceccarelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E naturalmente di calcio e di sport torneremo a parlare tra poco in Tutti Convocati, intorno alle 14:05. Notizia appena battuta dalle agenzie: un uomo, Giacomo Mirabilia, responsabile marketing Roma di una società la quale fa capo anche la catena Troni, si è tolto la vita ieri sera a Roma lanciandosi dal 7° piano dell'azienda. Si è appreso che un parente del presidente della società, Alessandro Febraretti, che era finito in manette lo scorso 11 dicembre per una frode fiscale milionaria.